Ta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Naturalmente potrete ascoltarci anche tramite l'apposita app che potrete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal sito radiocittafujiko.it e che vi permetterà di ascoltare Radio Città Fujiko e nello specifico Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che sta iniziando in questo momento. Come dicevo, potete ascoltarla in tutto il mondo. Città Fujiko Live Club, ogni mercoledì un paio di orette scarse, a dire il vero, di musica registrata dal vivo, musica ufficiale registrata dal vivo di tutte le epoche e di tutte le quasi di tutte le opzioni possibili nel vasto spettro musicale mondiale. Città Fujiko Live Club che inizia sempre con una novità e oggi è una cosa veramente succulenta, un dischetto live naturalmente che si propone pesantemente come album dell'anno, peccato solamente che sia singolo, ma questo è una cosa che non dipende da me. E il problema è che è una registrazione che è stata effettuata una decina d'anni fa, esattamente il 22, 23 e 24 agosto del 2014. Il titolare di questa meraviglia si chiama Van Morrison. Sir George Ivor Morrison viene da Bloomfield, che è un sobborgo di Belfast nell'Irlanda del Nord, ed è attivo dal 1958. Ha cominciato giovanissimo con una serie di band, skiffle, che era un tipo di musica che andava molto all'epoca, e aiutato molto dal fatto che suo padre aveva quella che per parecchio tempo è stata la più grossa collezione di dischi di tutta l'Irlanda del Nord. Poi appunto ha iniziato in queste skiffle bands suonando sia la chitarra che il sax e naturalmente cantando. Poi dal 1964 al 1966 ha fatto parte di quella band che si chiamava Them e che ha avuto un sacco di grandi successi, singoli naturalmente, e soprattutto però il maggior successo è quel brano che conoscete sicuramente tutti, che si chiama Gloria. Capirete che dal 1967, anno in cui si è dato la carriera solista, ha fatto tantissimi album, non so esattamente quanti, ma penso una trentina, alcuni dei quali sono veramente delle pietre miliari, dei capolavori: Astral Weeks, Moondance, Tupelo Honey, solo per citarne tre, ma sarebbero veramente molto di più. Nel frattempo ha fatto anche 8 album live, questo Live at Orange Field, che è quello che vi propongo oggi come novità, è l'ultimo in ordine di tempo, è stato appunto registrato nell'agosto del 2014, ma è uscito solamente un paio di settimane fa ed è veramente notevole. L'album si chiama Live at Orange Field, che è la scuola secondaria che Van Morrison ha frequentato, non ha finito, non è stato diplomato, non si è diplomato perché ha cominciato a suonare in giro per la Nord Irlanda e la Gran Bretagna, in seguito in giro per il mondo, ma in quell'anno, nel 2014, la scuola aveva dei grossi problemi finanziari e lui ha pensato bene di dare una mano alla sua vecchia scuola, Orange Field appunto, organizzando questi concerti che hanno portato monete nelle casse della scuola, riabilitandola dal punto di vista economico. Andiamo quindi ad ascoltarci adesso, dopo tutte queste chiacchiere, fra i masterpiece ho citato Moondance e ci andiamo proprio ad andare ad ascoltarla, title track, che è un brano che è veramente sempre fantastico. Van Morrison, Moondance. So what? con il fatto che Van Morrison si circonda sempre, in ogni occasione, in ogni tour, diciamo, con musicisti diversi, gli arrangiamenti di questa canzone, come di tutte le altre del suo vastissimo repertorio, cambiano sempre arrangiamento, ed è veramente un piacere ascoltarle, scoprire questi nuovi arrangiamenti. Questa era Moon Dance, la versione del 2014 dall'album che vi propongo oggi come novità, Live at Orange Field, l'ultimo album live di Sir Van Morrison. E come dicevo, Van Morrison ha scritto decine e decine e decine e decine di bellissimi pezzi. In questa prima parte della trasmissione ce ne ascolteremo alcuni, ad iniziare da un brano che si chiama Madame George. Ad offrire questa versione live, naturalmente, dal Festival di Montreux del 1995, è un'icona della musica al femminile, un'icona britannica della musica al femminile. Si chiama Marianne Faithfull, è attiva da tantissimi anni, ha avuto un grande successo negli anni 60 con un brano che si chiama As Tears Go By, che fu scritto per lei dai Rolling Stones e con quale ebbe una relazione anche sentimentale, sessuale, amorosa, un po' di tutto, con diversi di loro, non solo uno. Poi ha avuto nel corso degli anni un sacco di problemi di droga, poi è ritornata anche in veste di attrice. Vi consiglio un film, se non l'avete già visto, ma lo conoscerete meglio di me, che si chiama Irina Palm, che è veramente, veramente notevole. Qui abbiamo una serie di registrazioni effettuate, come vi dicevo, al Festival di Montreux, appunto si chiama The Montreux Years. Il primo brano che è presente in questa occasione è proprio un brano di Van Morrison che si chiama Madame George. For the man. Hope you like it, dear. I haven't quite got the words yet, but nearly. Down the Cypress Avenue, childlike visions leaping into view. The clicking, clacking of the high-heeled shoe. Ford and Fitzroy, Madame George, marching with the soldier boy behind. You're much older now, with hat on, drinking wine, and that smell of sweet perfume comes drifting through early cool night air like Shalimar. Outside they're making all the stops, kids out on the street collecting bottle tops, gone for cigarettes and matches in the shop. Happy thinking, Madame George. Oh, that's when you fall. Oh, that's when you fall. Oh, that's when you fall. When you fall into a trap, sitting on a sofa, playing games of chess, with your folded arms in history books you glance into the eyes of Madame George. Like snow, the frosty window wraps, she jumps up and says, Lord, I think that it's the cops, and immediately drops everything she got down into the street below. Mm-hmm. joy. And immediately you hear the spell of music, laughing music, dancing music, all around the room. And all the little boys come around, walking away from it all, so cool. And you're about to leave, she jumps up and says, "Hey love, you forgot your glove." And she loved to love, she loved. She loves, she loves, to love, she loves, she loves, to love, she loves, to love, she loves, to love, she loves, she loves, to love. Say goodbye to Madame Joy, wonder why, for Madame Joy, cry your eyes. In the wind and the rain and the back street, in the back street, in the back street, in the back street, in the back street. Say goodbye, Madame Joy. Cry. Madame Joy, wonder why, for Madame Joy. Thank you. Seconda voce femminile dopo Marianne Faithfull è stata la volta di Maria McKee, cantante che arriva da Los Angeles, California, è stata insieme ai Lone Justice dall'82 all'87. Alcuni di voi forse si ricorderanno di aver visto i Lone Justice in apertura delle due date modenesi degli U2 del maggio del 1987. Maria McKee ha fatto 3 live album, questo è Live dei BBC, comprende appunto registrazioni effettuate per l'ente radiotelevisivo britannico, e il brano che ci siamo ascoltati, che come quello precedente Madame George arriva da Astral Weeks di Van Morrison, il brano, dicevo, si chiama The Way Young Lovers Do, la maniera con la quale lo fanno i giovani amanti, il tutto registrato appunto il 9 giugno del 1993 a Cambridge da parte di Maria McKee, che rimane sempre una gran cantante, ma la versione di questo The Way Young Lovers Do di Jeff Buckley è sicuramente inarrivabile. So girl, I can really feel you. Oh my sweet, sweet angel. Oh my sweet, sweet angel of the night. Your eyes shall reveal it if you will. Una delle migliori band di sempre, venivano dalla band italiane, ho dimenticato di dire, venivano dalla provincia di Reggio Emilia, fra Reggio Emilia e Modena a dire il vero, e sono stati attivi una decina d'anni, dal 1981 al 1991. Rocking Chairs si chiamavano, grande band, allo scioglimento Graziano Romani, questa voce incredibile che ci siamo ascoltati, è partito con una carriera solista non molto fortunata a dire il vero. Mentre gli altri tre dei musicisti, Rigo Righetti il bassista, Roby Pellati il batterista e Mel Previte il chitarrista, sono entrati nella band di Ligabue, quindi questo la vuol dire lunga. Il brano che ci siamo ascoltati viene da una raccolta che uscì postuma, che si chiama Sparks of Passion, che comprende un dischetto con le cose ufficiali registrate in studio dagli vari album ufficiali e una serie di rarità live nel secondo dischetto. Questa era Caravan, Van Morrison naturalmente, arriva dal Moondance album del 1970 ed è stato registrato a Milano nel 1990. Rocking Chairs, Caravan. È il momento adesso del brano più famoso di Van Morrison, lo scrisse in giovanissima età quando ancora era con i Zem e fu appunto il loro più grande successo. Naturalmente sto parlando di Gloria. Quante versioni ci sono di Gloria al mondo? Migliaia, non sto esagerando, ma veramente migliaia. Ho scelto una delle meno conosciute, anzi credo totalmente sconosciuta, un quintetto che arriva da Baltimore, Maryland, si chiama Almighty Senators ed è attivo dal 1988 con scarsissima fortuna. Comunque nel frattempo ha fatto due live albums ed è molto attivo appunto nei concerti dal vivo. L'album si chiama Raw Power Live, è stato registrato al 930 Club di Washington DC, Stati Uniti naturalmente. Il nome dice tutto: 9:30, l'orario in cui tassativamente cominciano i concerti, perché alle 11:30 c'è il coprifuoco, come si suol dire. Il tutto è stato registrato l'11 dicembre del 1999. Ce ne andiamo subito ad ascoltare il brano, naturalmente si chiama Gloria. talk about my baby like a good baby should. When we go out to the clubs now, you know we like to look good. And when I'm trying to match up my high heels and I don't have a thing, she lets me wear her tea bag, she lets me wear her G-string. And her name is to get me into the clubs now, likes to get me in for free. I'm not talking about the floor now, I'm talking VIP. And she doesn't get upset now when I leave a mess. She knows I like to look good, she knows I like to cross dress. And her name is G. So high everyone can take a peek. They sneak us in the back door because we look like a couple of freaks. And if you wanna hang with us now, just give me a call. We're in the VIP room with Mini-Me and RuPaul. said that Jackie Wilson said, I'm in heaven when you smile. È stato molto influenzato dalla musica di Van Morrison, Kevin Rowland, che sarebbe il cantante nonché principale artefice di questa band che si chiama Dexys Midnight Runners. Loro arrivano da Birmingham, hanno avuto due stints, chiamiamoli così, dal 1978 all'86, qualche anno di scioglimento. Nel 2003 Kevin Rowland ha riassemblato la band secondo i suoi voleri ed è attivo tuttora in giro per il mondo con grande successo, soprattutto dal vivo, perché come avete potuto sentire sono molto molto accattivanti, molto coinvolgenti. E il brano che ci siamo ascoltati si chiama Jackie Wilson Said ed è proviene da un album di Van Morrison del 1972 che si chiama St. Dominic's Preview. Per i pochi che non lo sapessero, Jackie Wilson era un cantante americano molto famoso negli anni 50 e 60 che a sua volta ha influenzato Van Morrison, quindi è una catena che si sussegue. Il brano che ci siamo ascoltati arriva dalla serie BBC Radio 1 Live in Concert ed è stato registrato al Marquee Exhibition Park di Newcastle in Inghilterra, naturalmente, il 6 giugno del 1982 e forse non lo, no, l'ho detto, si chiama Jackie Wilson Said. Per l'ultimo pezzo ero indeciso veramente tantissimo fra due molto simili, nel senso che sono due molto tranquilli, molto lenti e molto molto belli assolutamente. La mia scelta è caduta sul meno famoso dei due, l'altro è Rod Stewart, questo invece è Jason Isbell, in ascesa continua nel panorama musicale americano alternativo, chiamiamolo così. Lui e i suoi 400 Unit arrivano dall'Alabama e lui è stato chitarrista con i Drive-By Truckers dal 2001 al 2007 e appunto nel 2008 ha formato la sua backing band che si chiama The 400 Unit. Ha fatto diversi album live, un extended play che è quello che ho tra le mani. Prima però vi devo annunciare che prossimamente in ottobre uscirà Live at the Ryman Volume 2. L'anno scorso vi proposi come novità di una delle trasmissioni Live at the Ryman, l'album live appunto di Jason Isbell and the 400 Unit, e in ottobre uscirà il volume 2 sempre dallo stesso locale, sempre con lo stesso titolo, Live at the Ryman. Qui invece abbiamo Live at the Twist and Shout, che è un negozio di dischi di Denver in Colorado dove nel 2007 fu registrato questo nel 2017 scusate fu registrato questo brano che ci andremo ad ascoltare, che fu poi pubblicato in versione extended play insieme ad altri 5 brani per il Record Store Day del 2018. Il brano che ci andremo ad ascoltare, splendido, arriva da Moondance, album di Van Morrison del 1970, e si chiama Into the Mystic. Naturalmente ci sarebbero ancora tantissime altre covers di Van Morrison da farvi ascoltare. Appena possibile ci sarà una seconda puntata. Just like way back in the day. And I went right straight back to work. Baby, don't let it slide. I'm a working man in my pride. Well, I'm cleaning windows. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 4 settembre 2024, prima trasmissione di questo mese che vede il ritorno al lavoro di molti, e quindi buon lavoro a tutti coloro che hanno ripreso dopo le ferie, se mai le hanno fatte. E seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, Van Morrison, suo ultimo album si chiama Live at Orange Field e ha come sottotitolo, diciamo così, come sottotitolo Be Just and Fear Not, cioè sii giusto e niente paura, perché questo album è stato registrato nel 2014 per raccogliere fondi per la scuola media, diciamo così, che aveva frequentato Van Morrison, che era in difficoltà economiche, e appunto questo Be Just and Fear Not è il motto della scuola stessa, che detto per inciso Van Morrison non ha concluso. Comunque questo è un altro discorso, perché lui è sempre veramente fantastico. E proprio ieri, pulendo i vetri di casa, canticchiavo questa canzone che si chiama proprio Cleaning Windows, cioè pulendo i vetri, perché il personaggio che della trasmissione, scusate, della canzone sta pulendo i vetri ed è felice di pulire i vetri canticchiando Bibappa Lula. Io invece canticchiavo appunto questo Cleaning Window. Malgrado la pulizia dei vetri, anche nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva sempre, sempre, sempre Ricordi Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. E ancora una volta tantissime cose, e ancora una volta tantissime cose sono state registrate in questa giornata, e ancora una volta il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E ne stiamo subito con un grande personaggio, si chiamava Tim Buckley, il papà di Jeff, che ho citato in precedenza nella prima parte della trasmissione. Il papà di Jeff veniva da Washington DC, fra l'altro loro non si sono mai, si sono visti solamente una volta quando Jeff era giovanissimo e non se lo ricorda affatto. Ebbe il grosso problema di morire per overdose nel 1975 in giovanissima età, proprio nel momento in cui stava espandendo il suo spettro musicale da semplice folk, semplice non tanto perché poi era una cosa veramente strepitosa come sentirete, stava cercando altre direzioni musicali per esplicitare la propria arte, purtroppo appunto c'è stata quella overdose. Tutti gli album che trovate in concerti che trovate sul mercato attualmente sono tutti postumi, sono usciti tutti dopo la sua morte, e compreso questo live di Troubadour che ci andremo ad ascoltare. Il brano che ho scelto per voi è stato registrato, come tutto l'album, il 4 settembre del 1969, appunto al Troubadour, che è uno dei locali storici di Los Angeles, California. Il brano, Tim Buckley, si chiama Drifting. When there's wine in your belly, love rhythms on your tongue, for you are a woman, and each man has been too young. But for me, you were a lover, gently under your cover. Your sheet reeks of other. Oh, I came here to hold and be held for a what you mean to me. Forse non propriamente un brano da mezzogiorno, ma sicuramente un brano bellissimo. Si chiama Drifting. Lui era Tim Buckley, live il 4 settembre del 1969 in Los Angeles. L'album si chiama Live at the Troubadour 1979 ed è 69, scusate, ed è sul genere appunto che ci siamo ascoltati prima. della ricerca di altre sonorità del quale vi parlavo in precedenza e che però furono drasticamente interrotto nel 1975 da un overdose. Andiamo avanti di un paio d'anni, arriviamo a 1971, siamo all'inizio della fase calante del periodo di notorietà di una grande band che è stata uno dei miei grandissimi amori musicali, quando ero bimbo praticamente mettevo insieme tutte le mancette che mi davano per andare a comprare i singoli dei Creedence Clearwater Revival, una band favolosa che ha fatto una serie infinita di singoli che sono entrati in classifica, che hanno avuto un grande successo, che hanno avuto un sacco di cover. Questo magari sarà oggetto di un'altra trasmissione. Loro venivano da El Cerrito in California e erano attivi fin dal 1959, prima come Blue Velvets e poi come Gollywoods. Loro erano attivi grazie ai due fratelli Fogerty, Tom e John era quello che però scriveva tutti i brani ed era un po' il despota della band, tanto che il fratello nel febbraio del 1971 se ne andò. Infatti l'album che ci andiamo ad ascoltare non era stato approvato da John Fogerty perché è un album in trio. Loro fecero questo tour in Europa che fu immortalato in questo album che si chiama Live in Europe, un doppio vinile che appunto Fogerty non voleva essere pubblicato. Ci furono dei problemi con la casa discografica, una serie infinita di problemi legali che impedirono a John Fogerty di cantare le proprie canzoni per anni e poi finalmente è tutto risolto. Adesso John Fogerty è stato in Italia anche quest'estate, fa un concerto praticamente infarcito di canzoni dei Creedence Clearwater Revival, tipo questa che è stata registrata in Europa, come vi dicevo, in una località sconosciuta, si sa solo che era nel Jersey, in Gran Bretagna, il 4 settembre del 1971. È un medley fra due brani, uno dei Creedence Clearwater Revival scritto appunto da John Fogerty e l'altro scritto da Dale Hawkins, che ha portato tanta fortuna a Creedence Clearwater Revival. Ne fecero un singolo, lo ricordo benissimo, uno di quelli che comprai da bimbo. La facciata A era in studio, la facciata B era dal vivo e durava il doppio. Ci andiamo ad ascoltare Green River Suzy Q, Creedence Clearwater Revival, 4 settembre 1971. We'll be right back. Creedence Clearwater Revival, grande band, due brani uniti in medley, Green River, scritta appunto da John Fogerty, e Suzy Q da Dale Hawkins, il tutto registrato in questa località sconosciuta del Jersey in Gran Bretagna il 4 settembre del 1971. Si chiamano America, sono formati in quel di Londra, era un trio, sono formati nel 1970 perché erano a Londra, perché erano figli di militari americani di stanza nella capitale britannica. Poi si sono trasformati in duo perché Dan Peek ha lasciato la band nel 77, hanno avuto un sacco di singoli anche loro molto venduti, molto apprezzati, molto conosciuti. Il brano che ci andiamo ad ascoltare viene dalla serie King Biscuit Flower Hour, trasmissione radiofonica che per anni, una ventina o 25 addirittura, ha trasmesso concerti in tutti gli Stati Uniti, portando al successo la band naturalmente in questione. In pratica il tutto da parte di America è stato registrato al Blossom Music Center di Cuyahoga Falls in Ohio, in questo caso il 4 settembre del 1982. E niente, non credo che abbia bisogno di presentazioni questo pezzo perché è famosissimo, si chiama Horse with No Name. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was the clouds of buzz and the sky with no cloud. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I went to the desert on a horse with no name that felt good to be out of the rain. Desert, you can remember your name, cause there ain't no one for to give you no pay. Adios, amigos! Charlie Brown. Go be like Charlie Brown, good grief. You will be like Charlie Brown. You will be. Jump, come on. Hey. Everybody come on. Questi cinque sciamanati venivano da Utrecht in Olanda, si facevano chiamare Urban Dance Squad, sono stati attivi dal 1986 al 2000 e poi hanno fatto una riunione estemporanea nel 2006, ma poi si sono risciolti, non se ne parla più per il momento. Hanno fatto un solo album nel corso della loro carriera, un solo album live, scusate, ma in realtà poi ci sono state diverse pubblicazioni, ripubblicazioni per meglio dire, dei loro album in studio con annessi dischetti live. È il caso di questo Planet Ultra, che è l'album che ci siamo ascoltati, che è stato pubblicato nel 1996, ma stranamente nel 1999 fu pubblicata una versione rimasterizzata con annesso un CD live, che è quello che ci siamo ascoltati, che è stato registrato in Continental Club di New York City, e il brano che ci siamo ascoltati si chiamava Dress Code, loro lo ripeto, Urban Dance Code, il tutto registrato il 4 settembre del 1997. Un po' più tranquilli, un po' più canonici, from Dublin, Ireland, arrivano gli Hot House Flowers, anche loro attivi dal 1985, ma hanno fatto diversi riposini nel corso di questi anni. Hanno avuto un grandissimo successo internazionale anche col primo album, che si chiama People, album del 1988, e nel corso degli anni hanno pubblicato diversi singoli, quando ancora si pubblicavano singoli naturalmente, con canzoni dal vivo allegate. Hanno fatto anche due album live, questo è il secondo, è un doppio che è stato registrato all'Irish Festival, ma attenzione, a Kansas City, Missouri, non in Irlanda. Comunque si chiama Goodnight Sun ed è stato registrato il 4 settembre del 2009. Hot House Flowers, il brano che ho scelto per voi, si chiama Be Good. Sii buono, be good, dicono gli Hot House Flowers in questo concerto registrato a Kansas City, Missouri, il 4 settembre del 2009. Andiamo a concludere la trasmissione, anche naturalmente Ricordi Today, rimanendo con una band dublinese che credo conosciate, ma prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 all'incirca alle 12.25, sempre sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Vi lascio con U2, credo che non abbiano bisogno di presentazioni, dirò solamente due cose. Che il fan club degli U2 si chiama Propaganda, ogni anno a chi si iscrive fa un omaggio, sono libri a volte sono CD sia dal vivo che in studio. A noi interessa questo Live Songs from Innocence and Experience, che è stato il regalo del 2019, è un doppio CD con registrazioni effettuate qua e là per il mondo. Questa in particolare, che si chiama Red Flag Day, è stata registrata a Colonia in Germania il 4 settembre del 2018. U2 sta per, anzi già uscito un extended play con 5 pezzi di un concerto del 93. La domanda è: non capisco perché non pubblicare tutto il concerto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia di U2, il brano si chiama Red Flag Day. Jumped again and through. So many lost at the sea last night. The one word that the sea can't say is no. Solo basi credo a tanti.